Per noi questo è il secondo momento pubblico dal punto di vista proprio di uscita e manifestazione auto-organizzata. Sarà una piazza, non sarà un corteo, quella del 27, dove ci prenderemo ovviamente cura con responsabilità della attraversabilità di questa piazza da parte di tutte e tutto. È una piazza che teniamo molto, non è una piazza in contrapposizione, è una piazza che segna la continuità di questo percorso politico rispetto a quello che appunto è stato creato nell'ultimo anno e che soprattutto in qualche modo è anche cambiato attraverso la pandemia e quello che ha comportato rispetto ai nostri modi di auto-organizzarci. Beside Pride si è concentrato fin dall'inizio sul far emergere le soggettività che normalmente sono più marginalizzate nella società ma anche nel movimento LGBT mainstream, quindi è una rete che è composta di sex worker, è composta da persone siero coinvolte, è composta da rifugiate, rifugiato LGBT, quindi il percorso è attraversato da persone trans e non binarie. Sono queste le soggettività che avranno tutta la visibilità e la presa di parola nella piazza del 27. Durante la pandemia sono cambiate un po' le modalità, in qualche modo ci siamo ritrovati a mettere a frutto una serie di riflessioni che avevamo già fatto sul mutualismo, sul neomutualismo, sull'importanza della solidarietà attiva all'interno della comunità. Sono delle iniziative, c'è un crowdfunding che si chiama Pane, Pagliette e Connessioni e potete trovare tutte le informazioni sul blog del Beside Pride, cioè besidepride.noblogs.org, dove trovate il punto di vista del Beside su tutte le questioni che ho prima nominato. Ci sarà un'assemblea questa sera, dalle 19.30 accoglienza e poi alle 20 inizia, l'assemblea è su Jitsi, trovate il link per connettervi a questa assemblea nella pagina Facebook del Beside Pride. Non ci sarà una diretta di questa assemblea proprio perché la presa di parola di soggettività particolarmente indecorose, no? Stando un po' a quella che è il giudizio che ci viene dato in questa società, deve essere il più possibile libera. Riteniamo quindi che sia più safer non fare una diretta su Facebook o su YouTube. E poi la piazza che sarà il 27, ti chiederei di raccontarci un po' anche come sarà strutturata la piazza, quindi quali eventi e momenti avete già programmato e anche perché appunto è così importante ritornare in piazza in questo momento. La piazza sarà appunto gestita per la safety di tutti. Ci saranno diversi interventi, diciamo anche le modalità della piazza non sono del tutto definite ancora perché si definiranno stasera insieme alle persone che parteciperanno a questa assemblea. Sicuro noi non parliamo di distanziamento sociale ma parliamo di spazio tra i corpi, spazio che viene riempito da desiderio, che viene riempito dalla rabbia, che viene riempito dal bisogno, sia il bisogno della lotta per i propri diritti, ma anche per la condivisione di bisogni che è fondamentale per permetterci di auto-organizzare le nostre reti di mutualismo, le nostre reti di aiuto. Scendiamo in piazza sulla questione della salute, perché attraverso la pandemia ci siamo sempre più resi conto di chi viene lasciato fuori e come viene lasciato fuori in questi momenti emergenziali, no? Quindi pensiamo alla salute trans, pensiamo alla salute delle persone con HIV e pensiamo appunto alla necessità di ridefinire in ambito territoriale la questione della salute e di restituirla in parte anche alle stesse persone che in modo volontario se ne occupano. Saremo in piazza per sicuramente quello che si dice oggi, no? In solidarietà al movimento Black Lives Matter, ma perché noi la questione del razzismo istituzionale, la questione del razzismo sistemico è per noi centrale, è diventato centrale sempre di più mano a mano che le nostre assemblee hanno avuto la partecipazione di rifugiate e rifugiati LGBT. Abbiamo fatto una serie di assemblee con traduzione eccetera per confrontarci appunto con persone che spesso difficilmente poi si trovano in prima linea nella lotta per una serie di ragioni che ci racconteranno anche direttamente in piazza 27. Siamo per la riforma della legge 164 sulla transizione, quindi saremo assolutamente in piazza anche per questo. questo, per far sì che la transizione non sia più un processo di patologizzazione per i corpi delle persone trans e delle persone non binarie. Saremo in piazza per la decriminalizzazione del sex work. Abbiamo visto come le sex worker stesse si siano auto-organizzate durante questa pandemia per fare fronte a una esclusione sociale, un'esclusione economica che hanno vissuto nel momento dell'emergenza a causa della criminalizzazione di questo lavoro. Siamo in piazza perché le vite queer, le vite nere, le vite cross, le vite trans valgono, e in continuità con la piazza del giorno prima, che sarà il 26, di non una di meno, anche noi insieme vogliamo dire che non vogliamo tornare alla normalità, perché la normalità era già il problema.